come si fa il titolo, il giuramento stabilendo la legittimazione del Nuovo Testamento, è chiaro dal titolo che il Nuovo Testamento non è concorde di dare un giudizio esclusivamente. Esso chiede, o perlomeno a prima vista sembra proibito, un pretesto molto logico, quello di Matteo e quello di Giacomo. Uno è in una forma di antitesi, di una forma catechetica, l'altro è in una forma paradigmatica. Però abbiamo molti testi, altri, addirittura decine di testi di Nuovo Testamento, dove questa proibizione sembra totalmente sconosciuta. Io non mi soffermo a dire che cosa è il giuramento, il giuramento umano, il divino, il provvisorio, eccetera, queste sono cose anche note. Matteo. Ho ricordato il testo greco perché tutto possiamo dire che abbiamo la parte al titolo eseguito di Matteo, dove c'è un argomento nuovo, che l'argomento nuovo è introdotto dalla prima parola pane, quindi si tratta di un argomento nuovo rispetto alle antitesi precedenti. E c'è un'antitesi doppia tra non giurerai e compirai i tuoi giuramenti. E poi Gesù invece dà il suggerimento anche negativo, io ti dico non ti urlare al faccio, e poi l'insegnamento positivo sia il vostro sì, non sì, e no, e no. Giacomo conclude la sua lettera e anche questo insegnamento sembra importante perché è introdotto dal Papa, prima di tutto, soprattutto. Quindi è una esortazione che mi sta molto a cuore. Non mi soffermo sulle differenze tra i tedeschi, la differenza più marcata è che Giacomo non attribuisce affatto il suo riferimento a parola del Signore. Matteo proibisce quattro forme di giuramento o da quattro esempi, Giacomo ne ha soltanto due. Il motivo finale anche è diverso, per Matteo il tutto viene dal male o dal maligno, per Giacomo perché non cadiamo sotto il giudizio. Quasi tutti gli esegeti ritengono più antica, più originale la forma di Giacomo. E questa forma di Giacomo ricorre anche, questa salvazione che ho scritto che sono poi, la forma di Giacomo ricorre in Sant'Agostino, ricorre in Clemente Alessandrino, ricorre nelle costituzioni apostoliche. Incominciamo allora con Giacomo. Propanto te non significa soprattutto al giudizio, è uno stile epistolare dove significa che l'autore è stato il gentile. E abbiamo esempi in altre lettere del Nuovo Testamento. Propanto non significa la cosa che ti sta a cuore, ma significa che l'autore sia giunta a concludere. Comunque Giacomo non si accontenta di condannare i giuramenti falsi, ma dice non giurate né per il cielo, eccetera, eccetera, quindi esclude ogni testimonianza con giuramento, esclude ogni tipo di giuramento, e invece aggiunge l'esortazione a un parlare positivo, sia il vostro sì, sì, il vostro no, no. E quasi tutti i commenti riportano a questo proposito i parallelismi estrabibili, insieme a Giacomo, sia nel giudaismo, in quel esempio, in quello tiranico, sia nel mondo ellenistico. Però direi che in nessun commento ho trovato una distinzione radicale. La proibizione del giuramento nell'ellenismo e la proibizione del giuramento nel mondo tiranico hanno motivazioni radicalmente diverse. Nel mondo ellenistico è per un motivo antropologico. Pensate alla politica storica, il saggio deve essere veritiero, deve essere credibile per sé. La proibizione del mondo giudaico è per evitare di profanare il nome di Dio, quindi una motivazione ideologica. Poi normalmente si sottolinea anche che nel mondo umano e semito il giuramento era proibito. Quello è vero fino a un certo punto, perché il documento di Damasco, scoperto nel secolo scorso, ma trovato anche di esemplare a Qumran, permette il giuramento. E per tornare all'esempio del professore che ho detto prima, vieta al fratello, al marito, alla moglie, vicino al fratello, al marito, al padre, vicino direttamente alla donna. Il documento si fa un piede, quindi la donna può trovare questo giuramento è male. La motivazione per cui il giuramento è proibito perché non cambiate nel giudizio escatologico, quindi la motivazione escatologica perché in tutto il capitolo 5 di Giacomo ricorre questo motivo escatologico, versetto 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Continuamente tutte le motivazioni delle esortazioni di Giacomo, quindi da parenesi e da parenesi che si basa sul motivo escatologico. Matteo. Non sperturare. Ebbene, nell'Antico Testamento fu un detto del genere alla lettera di Mosè, nella legge di Mosè. Nella legge di Mosè, la tradizione chiara e tonda, così come riporta Matteo, dello sperduro non c'è. E non possiamo pensare ad un altro comandamento non decorre più falso, perché il giuramento del mondo biblico riguarda il secondo comandamento per noi. Quello che vi direi è che era il tempo. Vicino al detto del Levitico, non giurerete il falso nel mio nome, così profano il nome del tuo Dio, io sono Adonai. Lo sperduro invece è proibito nel giudaismo educativo, per il dei fratelli, proibito da sapienza. Secondo il detto dell'Antico, adempirai col Signore i tuoi giuramenti anche in una forma corrispondente esatta di Antico Testamento. Ci sono frasi analoghe, però una frase uguale identica nell'Antico Testamento di c'è. Sembra che le due frasi, lo sperduto pietà e l'invito ad adempiere i giuramenti, riguardino da un lato il giuramento assertorio, dall'altro lato il giuramento promissorio. Ecco, Gesù non dice allora di giurare il vero o di mantenere i giuramenti fatti, ma semplicemente proibisce ogni forma di giuramento. Dice me homozai oros. Oros significa generalmente del tutto, quindi non giurare affatto. Il motivo non viene detto. Non si dice se è per evitare di cadere nel rischio di sperdurare, non si dice se è per onorare il nome di Dio, il motivo del divieto non viene detto. Subito dopo, invece, si fa una specificazione. Come è stato detto prima dal professor De Benedetti, l'esegesi rabbinica distingueva tra formule di giuramento più vincolanti e formule meno vincolanti, e così la casistica offriva una scappatoia alla insincerità, indicava certe riserve mentali, sulle quali tornerà Gesù e dirò qualcosa di dopo, nel capitolo 23. Non ci sono giuramenti maggiori o giuramenti minori, con tutti i giuramenti si ha a che fare con il nome di Dio. Quindi si fa l'esempio di quattro casi. Non si giura per il cielo, non si giura per la terra, non si giura per Gerusalemme, non si giura nemmeno per la testa. E poi si danno le motivazioni perché questi giuramenti tirano in campo Dio. E le motivazioni per i primi tre casi sono bibliche. Non giurare per il cielo perché è il trono di Dio, sono una motivazione biblica. Non giurare per la terra perché è scavello di Dio, anche questa è una motivazione biblica. Non giurare per Gerusalemme perché è la città del Gran Re, e anche questa è una motivazione biblica. Stupisce invece la quarta motivazione, quella di non giurare per la sua testa, che sappia io nel mondo rabbinico un mondo del genere non c'era. Era invece molto diffuso nel mondo romano. Tenente dice per capo di nuovo. Quindi sembra che Matteo adatti già le previsioni di Gesù al mondo greco romano. anche la motivazione muscolare per la sua testa, la motivazione del biglietto è alquanto strana, non ha il potere di rendere bianco o nero di quello che poteva, e non basta dipingere perché era molto nota da allora. Ma comunque non fermiamoci su cose secondarie. Gesù insegna che ogni giuramento indica un riferimento a Dio. Sono parole del nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, 2153. Anche se si evita di nominare Dio con uso di parole sostituite, questo resterebbe sempre un gioco di parole e Dio che si chiama in casa. Poi alla proibizione di giurare fa seguito un'istruzione positiva, molto strana. Esto de polomos timon, nai nai, il soggetto è il vostro parlare. Il predicato è costituito da un duplice sì o da un duplice no. Non giurare affatto, eventualmente pronuncia un duplice sì o pronuncia un duplice no. Per caso mai si ripeta due volte, ma non si faccia niente di più. Buono per essere nel pieno. Al massimo un sì doppio, un no doppio. Secondo Joachim Jeremias, uno dei maggiori studiosi di lingua greca e aramaica, il doppio sì o doppio no sostituirebbe la mancanza del distributivo nell'aramaico. Ogni volta che dici sì, sia sì, e ogni volta che dici no, sia no. La motivazione di Matteo, il più viene, è tu o ne un, è maschile o è neutro, io non lo so. Il di più viene dal male o viene dal marito, è lo stesso genitivo del padre nostro, liberaci dal male o liberaci dal marito. Comunque, all'origine dei giuramenti sta la forza del male o del maligno che esiste nel mondo. E il maligno o il male ti fa giurare con un legalismo, pensando che tu abbia a disposizione un vasto terreno tra ciò che è esplicitamente permesso e ciò che è esplicitamente proibito. Secondo punto, la virtù prescinde di questa proibizione dei modi stranieri. I testi di Matteo e Giacomo sembrano molto chiari, categorici, eppure molti autori del Nuovo Testamento sembra che non li conoscano affatto. E questi autori del Nuovo Testamento vi elenco nell'ordine che ho presentato nello schema. L'affermazione più significativa del Nuovo Testamento circa il giuramento è della lettera agli Ebrei, che notoriamente non appartiene alle lettere di Paolo, non fa parte della percorso disponibile. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 6, si dice: gli uomini infatti giurano per qualcuno maggiore di loro, e per loro il giuramento è una garanzia che pone ad ogni controversia. In greco si dice che il giuramento è fatto ex pevagosi, è un termine giuridico, tecnico. Per cui il giuramento, ogni controversia ha raggiunto il suo punto culminante, cessa. Il giuramento è garanzia di verità e quindi prerogativa del giuramento è tolgare ogni contesa e la lettera che greco accetta tranquillamente. 6:16. Ma non solo quello, la lettera agli Ebrei propone come cessazione di ogni controversia anche il giuramento di Dio. E se per tre volte cita il giuramento di Dio, prendendo testi dell'Antico Testamento, la lettera agli Ebrei cita di frequente il giuramento di Dio anche in testi propri, due dei quali sono proprio in 6:13 e in 6:17 e al centro in 6:16 è incastonato il giuramento degli uomini. Quindi Dio stesso giura ed è chiaro, lo ha detto il professor De Benedetti, non potendo giurare per uno più grande, giura per se stesso, non c'è nessuno che gli sia superiore. Si fa garante quindi del suo volere, della sua promessa. Anche finora dice che Dio giura, e il mondo approva i giuramenti di Dio. Però Filone dice, in fondo per Dio il giurare corrisponde alla sua eterna veridicità, alla sua eterna fedeltà, e quindi quando si dice che Dio giura è una pura metafora. Non vuol dire nient'altro che Dio parla. A me il ragionamento di Filone non sta molto bene, perché anche dire che Dio parla è molto. Tutto quello che Dio fa, diciamo, per metafora. Ora, se la Bibbia dice che certe volte Dio fa e altre volte Dio giura, è segno che per la Bibbia ci sono diversi modi con cui Dio si impegna, con cui Dio parla. Ci sono delle disposizioni che possono essere temporanee, forse a causa del tuo del male, della sclerocardia dell'uomo, ma ci sono altre disposizioni con giuramento e quelle sono indefettibili e manifestano quindi la sua totale fedeltà. La lettera di Ebrei fra queste disposizioni indefettibili mette il sacerdozio di Cristo, che non tramonta mai, mentre il sacerdozio levitico fondato sulla Torah, fondato sulla parola di Dio, fondato semplicemente sulla parola, è transitorio. Derivano da qui diverse conseguenze nella cerimonia. Se Dio giura, il giuramento non è in opposizione alla sincerità, alla veridicità, perché Dio che è vero, fedele, può giurare. Secondo testo, l'opera lucana, lo accenno brevemente, Luca parla due volte di giuramento di Dio, il benedictus. Dio è ecogetos, benedetto, perché si è ricordato del giuramento che ha giurato. È Luca 1,73. E Atti 2,30 parlano di giuramento di Dio a proposito del Cristo il Sole. Quindi l'opera lucana nomina due volte il giuramento di Dio, ma in due contesti estremamente importanti: la nascita di Cristo e la nascita nuova del Cristo il Sole. Partendo dalla lettera di Ebrei, gran parte della teologia cattolica ha giustificato il giuramento per infine mette fine a ogni controversia, come dice la lettera di lei, e anche per l'origine, giura Dio stesso. Così dei moralisti che ho consultato, da San Tommaso, parla il giuramento perché pone fine a ogni controversia e perché lo fa Dio stesso, e quindi è addirittura un atto di religione. Il corpus paulino. Paolo nelle sue lettere penso che ricorre al giuramento perlomeno una quindicina di volte. Accenno alcune di queste volte in cui Paolo giura. Romani 1,9. Quel Dio al quale rendo conto nel mio spirito annunziando il Vangelo del Dio suo mi è testimone che io mi ricordo sempre voi. Paolo chiama Dio testimone, che ama i Romani. Ai Filippesi, quei quali andava d'accordo come un guanto va d'accordo con la mano, che bisogno c'è di giurare, incomincia la lettera ai Filippesi, Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti voi dell'amore di Gesù Cristo. Seconda lettera ai Corinzi 1,23, notate la predizione di Cristo, non giurerai per il tuo capo. Io chiamo Dio a testimone sulla mia vita, che solo per risparmiarmi non sono più venuto a Corinto. Paolo giura per Dio Padre, altri testi che non cito, giura per il figlio, chiama a testimone lo Spirito Santo, giura sulla sua testa, che non mentisce, eccetera. Ci sono altri testi, alcuni citati anche dal professore nel suo testo, prima Corinzi 15, 21, ve lo giuro per l'orgoglio che trovo per voi in Cristo. Per te lo giuro in italiano non è stato tradotto, perché in greco è un ne, dove il verbo o mio è sottinteso. Quindi giura una quindicina di volte, affermazioni che tutti gli esegeti ammettono tranquillamente, hanno carattere di giuramento, per sottolineare la sua credibilità, la sua cura per le comunità. Paolo giura, giura dicendo che vorrebbe diventare anatema finché il suo popolo fosse salvato. Da questi giuramenti che cosa deriva? Cito l'attuale catechismo della Chiesa Cattolica, seguendo San Paolo, la tradizione della Chiesa ha inteso che la parola di Gesù non si oppone al giuramento, allorché viene fatto per un motivo grave e giusto. Finora ho citato lettere autenticamente pauline, ma anche in lettere che forse non sono di Paolo, ma della scuola paulina, la prima lettera a Timoteo, capitolo 1, 10, fra i peccati c'è l'atteggiamento del epiotos, lo spergiuro. Spergiurare è peccato, ma giurare è Paolo, ma non è su qualcosa di negativo. L'Apocalisse. L'Apocalisse 10, versetti 5, 6. Richiama ciò che diceva poco fa il professore Benedetto. Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra alzò la destra verso il cielo, e la cosa e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli. Giura per colui che vive, giura en. La stessa frase proibita da Gesù, mette en tocano e deve, qui l'angelo giura en. Giura per Dio alzando la mano, quindi anche qui per l'autore dell'Apocalisse la pratica del giuramento deve essere innocente se un angelo fa un giuramento solenne nel nome di Dio. Punto interrogativo. Giuramenti di Gesù nei Vangeli sinottici e Giovanni. Che cosa vuol dire l'amen? Addirittura in Giovanni il doppio amen che Gesù molte volte adotta. Che cosa significa quel amen? Io a Cognereminas, nella 3 Theologis Real Enciclopedia, dice che l'amen è un ersatz für Schwurforme. Cosa vuol dire? Io non lo so. Ersatz für Schwurforme. È un giuramento o no? Quindi molti esegeti sostengono che l'amen detto da Gesù è un giuramento, ma lasciamo in sospeso su questo ersatz. Vuol dire una sostituzione che lo rimpiazza totalmente. Comunque abbiamo alcuni passi del sinottici, ne cito uno, Marco 8, 12, tradotto molto blandamente da CE, in verità vi dico, a questa generazione non verrà dato alcun segno. Il greco dice amen, lego, divin, ei, dotesseta, integenea, tantes, medio. In latino, amen, dico, vobis, si, dabitur, generazioni, isti, simili. È il caso tipico che non era prima il professore di Benedetti, è lingua e braio. Mi capiti questo e questo e questo, se a questa generazione verrà dato un segno. Amen, sì generazioni, possibile. Tutti gli esegeti qui dicono è un giuramento solennissimo. Loro Aglia nel suo momento amato dice un giuramento dopo. C'è Amen prima e c'è Ei dopo. Sì, Davide, in ebraico, è un giuramento dopo. Procediamo dopo i sinottici passiamo a Matteo 23, 16, 22. È ancora il testo citato prima dal professor De Benedetti. Gesù suppone la prassi del giuramento, suppone la prassi dei voti a Dio e non l'ha mai fatto. Siamo nello stesso Vangelo di Matteo, nel capitolo 5 il giuramento è proibito, nel capitolo 23 il giuramento non è proibito affatto. Si dice semplicemente se giuri per l'altare o se giuri per è giurare per Dio. Qualunque giuramento, l'offerta, l'altare, il tempio e quello che vi sta sopra, eccetera, qualunque giuramento è sempre per colui che abita il tempio. E colui che giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi assiste. Non si condanna il giuramento, ma si dice che è impossibile evitare nel giuramento il riferimento a Dio. Lo so che molti esegeti dicono, ma questo discorso non riguarda i cristiani, riguarda i farisei, ma non è vero per niente. Perché il capitolo 23 di Matteo comincia così. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli. E il Vittorio non cambia più in tutto il capitolo. Quindi nel capitolo 23 sembra che il giuramento non sia per nulla proibito. Uno dei recenti commenti a Matteo, quello di Joachim Dinka, scrive così. Questo excursus sul giuramento, si trova in evidente contraddizione con la quarta antitesi del discorso del monte. Né si può negare che la comunità giudeo-cristiana nella quale si trova questo excursus, quindi Dinka ritiene che Matteo 23 risale alla comunità e non a Gesù, non si può negare che questa comunità praticasse il giuramento. Non si soddisfece la richiesta radicale di Gesù. E poi Nick aggiunge, probabilmente le cose stavano nello stesso luogo nella comunità di Matteo, altrimenti Matteo non prende quelle parole e non inserisce il suo Vangelo. Ultimo punto problematico, la proibizione del giuramento in Matteo 5, 37. Il vostro dire, il vostro discorso, o logos imon, esto nai nai un. Il professor De Benedetti mi confermerà, presso molti rabbini, il doppio sì, il doppio no è già un giuramento. Purtroppo il Talmud, almeno nella forma scritta, è di qualche secolo dopo Cristo, sia quello babilonese, sia quello. Quindi quando questa usanza di giurare dicendo semplicemente due volte sì e due volte no, quando sia originata, non lo sappiamo, c'è però già nell'Antico Testamento, nel testo portoghese, il professor De Benedetti. Quindi parecchi esegeti dicono, Gesù in fondo non ha proibito il giuramento, ha detto di adoperare forme più semplici di giurare. Giurate dicendo due volte sì o due volte no. Uno dei commenti più diffusi in Italia, perché parlo lì, tanto per il tempo, ci piace dopo, commento a Matteo, dice questa formula sì, sì, no, no, proviene dall'ambiente forense ed è il solo giuramento consentito nella società cristiana. Così commenta uno dei, direi, dei libri più diffusi. Capite che con ciò il divieto di Cristo viene radicalmente distrutto. Non giurate affatto, verrebbe detto, non giurate fino in fondo, non pronunciate il nome di Dio, non pronunciate Al-Tamet, iniziate da lì, non pronunciate Al-Tamet, non pronunciate iniziate da domani, ma giurate dicendo sì, sì, no, no. Di fronte a questa virtus vicite, quali sono le reinterpretazioni del divieto del giuramento? Che il divieto sia radicale è ritenuto evidentemente da pochissimi studiosi. Nel nostro secolo lo studioso di maggior peso, almeno ho studiato di essere vicino, ma nel nostro secolo lo studioso che ritiene il divieto di Gesù radicale è Johann Schneider, nel Theologische Wörterbuch sul Nuovo Testamento, alla voce Omni, Omnio, o alla voce Logos, dove ritiene che il divieto di Gesù sia del tempo in senso radicale. Quasi tutti gli altri commentatori, o di Matteo, o di Giacomo, o del discorso della montagna, attenuano la radicalità delle parole di Gesù o di Giacomo in vari modi, se ho elenco queste modalità con cui si sfuma o viene reinterpretato il divieto del giuramento. Incomincio con Giacomo, che è più facile. Per quasi tutti i commentatori, Giacomo non intende per dire tutti i giuramenti, ma soltanto per i provvisori, quindi non per i desertori, oppure quelli sconsiderati della vita quotidiana, quelli dei rapporti comuni, cioè non particolarmente solenni, quelli che si usano, dice per esempio l'Indish, nei rapporti commerciali, così i vari commenti a Giacomo, Romayer, Libellus, Rox, Tempel, Indish, eccetera. Il commento che in Italia è più diffuso è quello di Münster, tradotto probabilmente dal tedesco. Non si dà in Giacomo una direttiva che regoli il comportamento del cristiano nei processi pubblici, perché in questo momento il cristianesimo non è ancora di esercitarne un impulso, di esercitare un impulso in senso. Si tratta di un'etica per la vita spirituale, di una proibizione per la vita di ogni giorno. Per quanto riguarda i detti di Gesù, anche qui parecchi ritengono che non giurare affatto riguardi giuramenti promissori e non per gli assertori. Già Berger commentava in primis promissoris juramentis inter vici Christus. Oppure Gesù condanna l'abitudine troppo frequente tra i giudei del suo tempo di giurare per ogni inezia. Oppure Gesù proibisce i sotterfugi farisaici di giurare in modo solenne o di giurare in modo meno solenne. Secondo altri ancora, Gesù proibisce quei quattro tipi di giuramento e stop. Difatti in greco si adopera mette. Se quei quattro casi fossero quattro casi che esemplificano il tutto, in greco bisognerebbe adoperare medè. Non per nulla Blaster Brudel, nella sua grammatica del greco del Nuovo Testamento, adopera un intero paragrafo per dire questo mete è un greco semitico, ma vuol dire medè, e non riguarda solo quei quattro casi, ma in quattro casi si può ritenere l'interezza delle situazioni. Altri ancora che cosa intendono? A Gesù non interessa per niente il giuramento, il suo problema è un altro, tramite l'esempio del giuramento, educare il popolo a rispettare il nuovo Dio, così il commentatore valdese, che in Italia è uno di quelli che ha scritto maggiormente sul discorso della montagna, Nietzsche nel suo libro sul sermone della montagna. Altri ancora hanno detto prima, con il duplice sì o il duplice no, Gesù propone una formula semplificata di giuramento oppure suggerisce un surrogato del giuramento. Giuseppe Barbaglio, in un momento molto diffuso in Italia, dice: Gesù ha proibito il giuramento, non giurate affatto. Ma già la prima comunità lo ha subito corretto, e leggo parole sue: preoccupazioni molto spicciole di chiesa hanno adattato le parole del Signore a significati molto meno significativi, riducendone la portata originale. Quindi il vostro sì sia sì, il vostro no no, sono reinterpretazioni della Chiesa delle origini. Un lungo articolo su questo argomento di un certo Dautzerberg, Biblische Zeitschrift dell'81, è l'articolo più recente che io abbia trovato sul giuramento, fa una considerazione molto più radicale. In Giacomo il giuramento non è attribuito al Signore. In Matteo ci sono chiari segni di rielaborazione matteana. Quindi Gesù non ha mai proibito il giuramento, ma la proibizione di giuramento che c'è in Matteo e in Giacomo risale a un gruppo ristretto. Lui dice a un milieu linguistico-culturale giudeo-cristiano severo, abituato alla interpretazione alacrita dell'alacrità. E quindi, secondo Dautzerberg, il giuramento, il divieto del giuramento non risale a Gesù, perché troppi testi del Nuovo Testamento lo ignorano. Vengo alle due ultime reinterpretazioni. Il di più viene dal male o dal maligno. Scrive Schmidt: questo mondo giace nel maligno. Allora il giuramento può diventare utile o addirittura necessario finché questo mondo convive col male. Il giuramento è una testimonianza di Dio in un mondo ostile, lontano da lui, dominato dalla sfera della vita. E quindi il giuramento può essere necessario perché purtroppo il mondo non è un mondo in cui il regno di Dio è totalmente presente. Io penso che questa interpretazione è molto lontana da San Tommaso, il quale mette il giuramento non qualcosa da pretenda, ma qualcosa che è un terre necessaria subito. Mentre nei discepoli di Cristo il giuramento dovrebbe scomparire, perché nei discepoli di Cristo il dominio del male è abbattuto e ha incominciato a regnare la Signoria di Dio. Ultima reinterpretazione che proporrei: questa proibizione di Gesù è nel discorso della montagna e va interpretata come va interpretato tutto il discorso della montagna, quindi non nella materialità della lettera, ma nello spirito. Due righe prima c'è: se il vuoto ti scandalizza, cava; se la mano tronca, se il piede taglia via. E due righe dopo c'è: se il tuo nemico ti percuote la destra, tu porgi la sinistra. Siamo in pieno discorso della montagna, che va quindi applicato con una obbedienza, direi non prima di tutto letterale, ma con una appropriazione creativa, cioè in un confronto dialogico. Questi passi devono essere compiuti nel senso del discorso della montagna, per provocare veramente un cambiamento dei modi di vita, per far sì che veramente si incarni la Signoria di Dio, il Regno di Dio. Quindi la legittimità direi che è soltanto relativa. Forse il giuramento è permesso come mezzo che aiuta l'uomo a non cadere del tutto sulla china della menzogna verso la quale è di frequente tentato discipolare. Ma nella società di Cristo il giuramento non avrebbe più bisogno di esistere né nei confronti di Dio né nei confronti dell'uomo. Concludo velocemente con una frase tolta da sempre nella sua Ethik des Neuen Testaments, volume 3. Le chiese di tutte le confessioni difendono la necessità del giuramento e respingono il rifiuto del giuramento come paradiso satanico. Il fatto che il giuramento nella Chiesa si debba prestare su quel libro dei Vangeli in cui si dice non giurate affatto, si sopporta difficilmente. Questa realtà dimostra che la Chiesa non è ancora il regno di Dio, ma che essa è il mondo in cui domina ancora il male, perciò deve pregare senza interruzione di liberazione.